le suon mi scuote, e quale caligine profonda in ciel ricorre. Che veggio orrende furie, vien manco il valore. Luce, che pena! Questo